mi trovo qui, se vuoi saperlo, per via della mossa Kansas City. Che cos'è la mossa Kansas City? Magasso. Lo faccio perché ho da sfogarmi, perché ho ferite che devo leccarmi e non leccarti il culo sotto mutande e cavalli. Ah ah ah, infame. Hai il pane ancora intatto nel piatto e i denti crollati al primo impatto. Di che ti sei fatto? Tu che ti sei fatto da solo e da solo ti sei fatto fuori sei. Sfatto o muori o tira fuori i coglioni. Quelli che ti girano intorno sono i peggiori. Quelli che mi girano sotto come motori sono quelli che mi tengono distanti, cazzoni, e mi hai deriso. Mi stai sul cazzo e scivoli perché l'ho circonciso. Ti faccio un sorriso quando sei bollito, pallido e scolorito. La tua faccia da cico è naturale come stile di vita, la papito. Pito, tu ti arrap rapporto se vi ho dato l'invito. Fine. Questa è una mossa Kansas City. Loro guardano a destra e tu vai a sinistra. Se conti quanta merda gira, se ogni rapper d'oggi vale quanto la lira. E l'ira che ho che metto quando rimo vale quanto la benza che ti metti dentro il motorino. Lo faccio per dimostrarti che posso ammazzarti sui quattro quarti. Tu parti o rimango, io parti ti infango. Ti visto nei pesi e campiono dal tango. Manco mi vedi se un gay come credi, che tromba a Costanzo che ti ci sta di piedi. E questa noi la diamo in pasta ai cani. Non puoi parlare com'è se è iniziato domani. Porto rispetto ai king del ghetto, ti aspetto la fama scrivendo di getto. Mando in lutto la tua cruza, ne è certo. La gente applaude me quando rima un tuo concerto. Fai il figo che ti paragoni a Milton, ma poi spompini i micro come i cazzi con la Hilton. Bella vino quando rimo sconfino, e se morirò domani sarò un dio come Rino. E se morirò domani sarò un dio come Rino. Merda. Cazzo. Porca. Che cos'è la mossa Kansas City? Questa è una mossa Kansas City. Loro guardano a destra e tu vai a sinistra. Mixed.